Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. Come ogni venerdì da ormai diversi mesi ci occupiamo di intelligenza artificiale, cercando di immaginare come modificherà i più svariati settori economici e non solo. E questa sera vogliamo parlare di come l'intelligenza artificiale trasformerà la logistica, in particolare proprio la logistica anche di cui noi tutti ormai facciamo largo uso ogni volta che compriamo qualcosa su internet. E allora del futuro della logistica ci occupiamo con l'aiuto del nostro ormai esperto di fiducia, che è Damiano Frosi, direttore dell'osservatorio Contra Logistic Gino Market. Bentornato Damiano. Grazie di nuovo per l'invito Maurizio, buonasera a tutti. Allora, qui a Smart City, parlando di questo tema dell'intelligenza artificiale, abbiamo spesso fatto notare come il cambiamento più profondo riguardi il fatto che la nostra attenzione, per esempio nel progettare le attività, si sposta dal studio del passato allo studio del futuro, questa dimensione predittiva dell'intelligenza artificiale. Ecco, mi pare di poter dire che anche qui nel settore della logistica questo è un aspetto rilevante. È proprio così, il passato resta sempre fondamentale, perché per poter prevedere il futuro bisogna avere una base storica importante e una serie di mole di dati. Le nuove tecnologie, in particolare l'applicazione Artificial Intelligence, ci permette di elaborare molto rapidamente tutta questa mole di dati e poter applicare appunto delle logiche di predizioni, ad esempio nella logistica su tutto il mondo delle consegne. Quindi io, grazie al mio storico, grazie a quello che sto vedendo, inizio a immaginare che ci possano essere delle consegne necessarie domani, dopodomani, la prossima settimana, e posso iniziare ad esempio anche ad avvicinare il prodotto al consumatore, quindi da un magazzino centrale a un magazzino periferico piuttosto che a un punto vendita. Quindi questa è la prima ripercussione, quella direi principale all'interno della logistica. Stiamo quindi parlando del fatto che delle spedizioni di merci iniziano prima che quella merce sia stata ordinata. Esatto, prima che sia stata acquistata e forse anche pensata. Ecco, su che base queste previsioni si fondano? Senz'altro, non so, immaginiamo che c'è un negozio che vende ogni mese mediamente 100 flaconi di shampoo, e io che sono uno che fornisce shampoo posso immaginare che tra un mese ne avrà bisogno di altri. Ma non è solo questo. Esatto, sì, qui i sistemi e gli algoritmi... Ecco, a parte che parliamo non solo dei negozi ma anche dei singoli individui, no? Esatto, non è solo per il consumatore, non è solo e-commerce, è tutto, perché i sistemi, anche qui i nuovi sistemi, permettono di incrociare una serie infinita, se vogliamo, di variabili. Si parte ovviamente dalla previsione classica della domanda di un prodotto, ma magari si inizia ad associare una previsione del tempo. Ne parlavamo a microfoni spenti, fa freddo, ci immaginiamo che... di fronte a questa bufera di neve ci sia un bisogno di cioccolata calda per scaldare gli animi. Un picco di domande di cioccolata calda, oppure non so, di punch, no? Esatto, e quindi entra anche il meteo all'interno di questa previsione, al contrario quando farà caldo delle bevande, dei succhi di frutta, piuttosto che previsioni che riguardano traffico o altri eventi esterni che possono condizionare la logistica. Paradossalmente uno sciopero dei casellanti, uno sciopero potrebbe creare un momento, diciamo, di intasamento, e allora posso prevenirlo anticipando una spedizione. Esatto, anticipo una spedizione, inizio a portarla più vicino al punto di consegna, oppure inizio a prenotare un mezzo di trasporto in anticipo. Ecco, questa dimensione predittiva in realtà poi è uno degli aspetti, delle sfaccettature di una tendenza a gestire in modo molto più dinamico il trasporto delle merci e quant'altro. Sì, hai detto bene, non è solo una logica previsionale, ma è anche un lavorare in tempo reale su quella che è la pianificazione, ad esempio, dei giri di consegna, quello che viene chiamato appunto routing dinamico. In qualche modo uno prevede, ma poi si troverà di fronte sul campo degli imprevisti e adatta in tempo reale. Possiamo forse vederla così? È proprio così. E da questo punto di vista ci sono dei casi molto interessanti. Uno mi piace citarlo perché parliamo di una startup che ormai è diventata una grande azienda italiana, Milkman, che va a incrociare tutta questa serie di dati di cui abbiamo parlato, anche con le esigenze che possono cambiare all'ultimo minuto da parte del consumatore finale o di chi deve ricevere la merce. Quindi fino a 30 secondi prima della consegna il consumatore può dire non sono in casa, sono sotto la doccia, ripassa tra 10 minuti, piuttosto che guarda che non sono più lì ma sono andato da quest'altra parte, e il furgoncino va a ripianificare il tutto per andare a soddisfare questa esigenza. Tra l'altro può sembrare, diciamo così, un over service, quindi un servizio fine eccessivo al consumatore, ma in realtà permette di non perdere tempo, ad esempio, con il driver fermo un quarto d'ora in doppia fila ad aspettare perché il consumatore non c'è in casa. Non c'è, insomma, il destinatario in casa. È una di quelle pratiche che possiamo definire win-win. Forse in questi aspetti, diciamo, di riallocazione dinamica e di gestione dinamica ci può stare anche un po' di attenzione. Noi siamo molto sensibili a questo aspetto per le persone che lavorano in questo ambito. Sì, esatto, abbiamo parlato dei vincoli introdotti da un consumatore sempre più esigente, ma potrebbero esserci dei vincoli introdotti dal driver che ha una casa, una famiglia, dei tempi di lavoro, ha le sue esigenze. Quindi gli algoritmi possono anche tenere in considerazione i suoi aspetti, il fatto che appunto voglia magari a fine giro tornare a casa sua, voglia guidare il giusto numero di ore, e quindi pianificare anche tenendo conto di questi aspetti. Quindi una logistica, un'artificial intelligence che va anche a aiutare tutta la logistica a monte, chi ci lavora. Un esempio in questo senso può essere anche la startup molto innovativa che è stata presentata nel nostro ultimo convegno dell'osservatorio, che si chiama Unique, e ragiona proprio sull'ottimizzazione di tutti i flussi a monte, riuscendo a fare integrare dati che magari stanno in sistemi di diversi operatori, di diversi corrieri, di diversi operatori logistici, di diversi trasportatori. L'idea di fondo è quella di utilizzare un unico codice di consegna, diciamo così, super partes, e che viene applicato a una spedizione, a un pallet, a un singolo collo, e può essere letto da tutti gli attori della consegna, indipendentemente da qual è quello designato poi per fare fisicamente la consegna. Quindi può essere il mittente che dice ho spedito il prodotto, può essere l'operatore logistico che l'ha presa in consegna nel proprio magazzino, può essere il trasportatore che lo sta consegnando, di modo anche da dare una completa tracciabilità e sempre più informazioni poi a chi deve ricevere la merce. Grazie ancora Damiano Frosi. Grazie a voi, buona serata. Ci fermiamo qui, cari ascoltatori, appuntamento come sempre a lunedì, buon fine settimana.